Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, abbiamo fatto la nostra comparsata Facebook già questa mattina, ci hanno visto tu tutta carina con questo tubino nero alla Audrey Hepburn, io invece grigia topo come quello nuovo che si stanno inventando. Raccontala a tutti la storia allora, che sbirciavi stamattina. Ho sbirciato su una free press di questo, ho visto questo topo, ero in metropolitana e ho sbirciato e ho visto questa foto di topo un po' albino e ho letto inventato il topo artificiale. Non ho guardato bene perché poi ero arrivata la mia fermata. Magari chiediamolo agli ascoltatori se la sanno questa notizia. Qual è la storia del topo albino? È un po' è a metà tra la carta costa di Alessandro Milan e soprattutto, ma perché si devono inventare dei topi nuovi? Non ci bastano quelli che abbiamo? Che tra l'altro sono carini, poverini. Sono carini, sì, però, sì però diciamo che se te lo ritrovi in cucina la mattina o il pomeriggio o la sera. Io ho avuto un topo, tutte le persone che hanno una casa in campagna si sono confrontate un po' con un topo, no? Sì, se è piccolo, a me non fa impressione il topo piccolo. La pantegana, parliamone. E la nutria, io vedo anche le nutrie. Andiamo di castoro, allora. Vabbè, orsi, dromedari e cammelli. Siamo qua, pronti a partire. Allora, io parlerò di Canone RAI in bolletta e di alcune novità fresche di questi giorni e poi parlerò di mutui perché sono già 10 anni di vita della possibilità di surrogare e rinegoziare il mutuo. Lo ricorderete, le famose lenzuolate di Bersani che prevedevano 10 anni fa queste misure, sono già passate 10 anni, esattamente come il TFR nei fondi pensione che abbiamo celebrato qualche anno fa. Abbiamo già anche 10 anni di portabilità del mutuo, pensa un po'. Allora, invece, vuoi sapere di che cosa parlerò? Certamente. Io? Allora, è la giornata mondiale dell'udito e quindi parliamo di udito e poi parliamo di un dolore al ginocchio su cui hanno addirittura costruito un convegno, un dolore molto particolare, adesso finalmente hanno scoperto la causa. Benissimo, allora siamo pronti a partire, io naturalmente in apertura mi occupo anche un po' di mercati finanziari, va! Giornata piatta in Europa a Piazza Affari, perché non è tanto piatta Francoforte che sta perdendo mezzo punto, mentre Parigi meno 0,23, Londra meno 0,37%, l'euro è a 1,05,26 sul dollaro. Ieri sera stop anche a Wall Street dopo i record recenti, ma c'è stato l'esordio boom della matricola dell'anno per quello che riguarda Wall Street, almeno fino a questo momento. Snapchat ha chiuso con un rialzo del 44% e quindi un debutto con il botto al New York Stock Exchange. Il Dow Jones comunque, anche se con il calo di mezzo punto, è riuscito a mantenersi sopra i 21.000 punti conquistati per la prima volta il giorno precedente. Stasera c'è un appuntamento importante, parla di nuovo il governatore della Federal Reserve, la signora Janet Yellen, che ha questo discorso appunto previsto a Chicago e probabilmente darà magari qualche indicazione su quello che intende fare nel prossimo meeting della Banca Centrale Americana del 14 e del 15 marzo prossimi, quando potrebbe essere deciso un rialzo dei tassi di interesse. Andiamo a vedere Piazza Affari. Il miglior titolo, Salvatore Ferragamo, più 1,28, UbiBanca, più 1,22, FinecoBank, più 0,8, Unicredit, più 0,8%. Il gruppo, come sapete, ha concluso l'imponente aumento di capitale da 13 miliardi. Ieri abbiamo avuto la notizia delle dimissioni del vicepresidente Fabrizio Palenzona. In calo Luxottica, Tenaris e Azimut, che perdono un punto, meno 0,7% per Fiat Chrysler e Ferrari, meno 0,7% anche per STM e Prysmian. Prima del primo approfondimento di oggi, una notiziola, anche in questo caso fresca, attenzione alle truffe in nome del fisco e delle finte email per conto dell'Agenzia delle Entrate. Ridiamo di nuovo questa raccomandazione perché è stata proprio l'Agenzia delle Entrate che ha segnalato la ricezione da parte di molti cittadini di email di phishing nella propria casella di posta elettronica, email appunto apparentemente inviate da alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate contenenti riferimenti a numeri telefonici reali. Nelle lettere viene segnalato un debito con il Dipartimento Finanziario per il quarto trimestre del 2016, viene annunciato che in caso di mancata estinzione dell'indebitamento si provvederà al prelievo su conto corrente allegando dei file. Qua scatta naturalmente la paura per chi non conosce bene le dinamiche con cui si comportano questi, questi truffatori, l'Agenzia delle Entrate precisa che non si tratta di comunicazioni ufficiali e di essere totalmente estranee a queste stesse, quindi invita naturalmente a non tenere conto delle richieste e soprattutto non aprite gli allegati, cestinate l'email ricevuta. Non è la prima volta che questo tentativo di truffa viene segnalato, visto che già nel mese di giugno scorso era circolata un'email molto simile. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. La notizia di qualche giorno fa: sta cambiando e cambiato il modello di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento RAI per uso privato. Cosa vuol dire? Ce lo spiega Mauro Antonelli, Unione Nazionale Consumatori, ormai nostro esperto di riferimento per queste questioni. Antonelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, ricordiamo ancora una volta che cosa serve questo modello nell'ambito delle nuove modalità di pagamento del canone RAI in bollette, perché è stato cambiato il modello della cosiddetta dichiarazione sostitutiva. Sì, allora diciamo che questa dichiarazione serve in due casi: o devi dichiarare di non avere la TV, questa cosa, ripeto, va dichiarata ogni anno, quindi diciamo per tutta la vita bisogna dichiarare di non avere la TV, quindi non basta averlo dichiarato nel 2016, ahimè andava dichiarato entro il 31 gennaio, quindi chi lo dichiara oggi e purtroppo pagherà il primo semestre del canone, quindi 45 euro e qualcosa. E poi c'è l'altra dichiarazione, il cosiddetto quadro B, che è la dichiarazione sostitutiva, in cui devi dichiarare che c'è un'altra utenza elettrica per l'addebito, quindi moglie e marito hanno due utenze elettriche domestico-residenziali, la moglie dichiara: io non devo pagare perché paga già mio marito, quindi si indica il codice fiscale. Questa dichiarazione in realtà, se l'avete fatta nel 2016 ed è andata a buon fine, non va ripetuta, e quindi questo non è cambiato assolutamente niente. E ovviamente se invece non è andata a buon fine e continuerete a pagare, allora in quel caso è bene ripeterla. Certo. Quali sono le due novità? Abbastanza, diciamo così, un po' di lana caprina. La prima è la dichiarazione di variazione dei presupposti, cioè vuol dire io avevo dichiarato di non avere la TV, però purtroppo qualcuno me l'ha regalato e vabbè, che ci vogliamo fare? A nostra insaputa, magari, no? Capita. Sono delle situazioni frequenti di recente, chissà come va. Andiamo pure con la TV. Allora, in questo caso, mentre prima la dichiarazione di variazione rispetto alla precedente dichiarazione era inserita all'interno del quadro A e del quadro B, adesso c'è un quadro apposito, che è il quadro C, in cui devi dichiarare la variazione dei presupposti. Quindi hanno dato semplicemente un diverso rilievo a questa variazione dei presupposti, e diciamo un po' più chiara rispetto a prima, dove era inserita nell'ambito dei due quadri precedenti. Se lo dice lei che è un po' più chiara, comunque noi ne prendiamo atto. Prima novità, seconda? La seconda è un po' più complicata, nel senso che mentre prima la dichiarazione, quella del quadro B, dove dichiari che paga già il marito sostanzialmente, quindi c'è un'altra utenza elettrica della famiglia che deve pagare il canone, valeva per l'intero anno di presentazione, e quindi tu facevi la dichiarazione al 31 dicembre del 2016, questa valeva per l'intero anno, quindi per tutto quanto il 2016, come se l'avessi fatta al 1 gennaio 2016. Invece da adesso bisogna dichiarare la data da cui parte, diciamo così, e ha effetto questa situazione. Quindi, non so, il figlio che torna in famiglia, il figlio il prodigo che torna in famiglia, torna nel suo paesello che è tanto bello, ecco, allora in quel caso devi dichiarare che da questo momento è entrato di nuovo nella mia famiglia anagrafica, e la data ovviamente dovrà corrispondere a quella che risulta al comune, e a quel punto parte da quel momento lì l'effetto delle dichiarazioni. Quindi cambia molto, perché se tu ad esempio dichiari che questa cosa non vale dal 1 gennaio, ma vale dal 2 gennaio, si rischia di dover pagare due canoni, o perlomeno un canone e mezzo, perché dal 2 gennaio significa che comunque il primo semestre va pagato comunque tutto, e quindi ci sono degli effetti molto differenti. Certo, dovremo magari ritornarci con un'intera puntata, Antonelli, la richiamiamo sicuramente presto. In 30 secondi, se ce la facciamo, Stefania ci scrive a cuoredenari@radio24.it segnalandoci ancora l'eventualità di non arrivo dell'addebito in bolletta del canone TV. Stanno ancora perseverando queste situazioni? Purtroppo sì, io direi di aspettare la seconda bolletta, perché per la prima ci sono sempre un po' di problemi, eccetera, eccetera. Verificate se anche alla seconda non arriva, e a quel punto muovetevi. Bisogna fare il famoso F24 come ha fatto Nicoletta. Per l'F24 io aspetterei ancora un attimo. Nel senso che proverei intanto a sollecitare il pagamento alla società elettrica, cioè cercherei di far sistemare l'anagrafica, come si suol dire, e dopodiché a quel punto sì, non resta che il pagamento come dell'F24. Benissimo, grazie a Mauro Antonelli, Unione Nazionale Consumatori, per essere stato con noi. Abbiamo provato a dipanare di nuovo la matassa delle novità relative al pagamento del canone RAI in bolletta. È cambiato, appunto, come ci spiegava, questo modello di presentazione della cosiddetta dichiarazione sostitutiva per chi vuole autocertificare, che magari non ha lo strumento a casa e quindi non vuole pagarlo. Attenzione, perché i casi sono tanti e quindi bisogna fare una verifica puntuale di ciascuno. Allora, andiamo a sentire il traffico. A tra pochissimo. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Cuore e denari. Andiamo ogni giorno, Deborah, a caccia di notizie su cui costruire la nostra rassegnetta stampa. Cerchiamo sulle agenzie, sul web, sui giornali per restare, come si dice, al passo con l'attualità. Ti piace? A volte, sì, esatto. A volte cerchiamo anche di anticipare i temi. Certo. Anche se, diciamo, poi cadono le nostre iniziative nel disinteresse generale, ma non importa. Lo sappiamo. Allora, dopo il primo embrione da cellule staminali di cui ti ho parlato, insomma, il topo artificiale, venendo proprio qua in redazione, ho origliato una notizia che vi voglio raccontare, che sono certa susciterà il vostro interesse, e in modo particolare penso a chi ha superato gli ANTA, inteso come presenti. 50 però, no, tu non ancora, no, okay. E che si diletta con lo sport, è un po' cuore denari, vedi, mettiamo insieme tu ed io. Allora, oggi prendo, come si dice, due piccioni con una fava, misuro il mio udito perché la notizia l'ho sentita bene, oggi tra l'altro è la giornata mondiale, ne parleremo tra poco, e guadagno punti con i nostri ascoltatori, perché forse darò loro un'indicazione che potrebbe aiutare a risolvere un problema. Allora, la notizia di cui voglio parlarvi riguarda in modo particolare il ginocchio, e in questo caso l'attualità gioca in casa, perché di ginocchio se ne sta parlando in un convegno proprio qui al Sole 24 Ore. Allora, abbiamo catturato per noi il dottor Massimo Berruto, che è responsabile della struttura semplice dipartimentale di chirurgia articolare del ginocchio del PIMI CTO. Buongiorno, dottor Berruto. Buongiorno, perfetta puntualità, ci ha preso in pieno coffee break. Quindi... Vede, perfetto, così ce lei... ne vuole portare uno? Sì, no, assolutamente, facciamo, quando volete. Facciamo una pausa caffè insieme. Certo, allora, certo. Dottore, lei si occupa di un'articolazione che si lamenta spesso, anche di gamba buona, sì, no? Perché il dolore al ginocchio, lo sappiamo, è molto diffuso, democratico. Questo in parte ci tranquillizza, della serie malcomune mezzo gaudio, però non risolve il problema. E spesso, a dirla tutta, non è immediato trovare la soluzione del nostro problema, ma per fortuna voi state lavorando per noi, lavori in corso, e avete trovato la causa di un dolore molto fastidioso che ha delle caratteristiche particolari. Mi dica se ho capito bene. Di solito arriva all'improvviso, da un giorno all'altro, non sembra avere alcuna spiegazione, perché non abbiamo avuto nessun trauma, nessun incidente, non abbiamo fatto sforzo, né abbiamo avuto dei problemi pregressi, ma eccolo lì, quel dolore. Tanto che diciamo, beh, non so come mai, è un male terribile, ma non capisco cosa sia. Ma forse voi state capendo di più. Allora, noi siamo qui in più di 200, quindi un bel gruppo di persone che stanno lavorando in questo convegno, su uno dei possibili o delle molto probabili cause di questi dolori acuti improvvisi. Lei giustamente si riferiva a una popolazione, 50, 60, 70 anni, quindi una popolazione ancora attiva, sportiva, che da un giorno all'altro si alza dalla sera prima, in cui aveva un ginocchio che funzionava e non aveva problemi, il mattino si alza col dolore acuto al ginocchio. Allora, una delle cause può essere questo edema osseo, proprio tema del nostro congresso di oggi, il bone edema, in termini come viene descritto dagli anglosassoni, che è una sorta di improvviso acuto infarto dell'osso che è limitrofo, cioè vicino all'articolazione del ginocchio, quindi può essere il femore, può essere la tibia, che appunto compare spontaneamente, rapidamente ed improvvisamente e può dare questo dolore acuto senza giustificazione. È un dolore anche e anche un po' gonfietto il ginocchio, vediamo un po' di... Diciamo, oh no. noi in generale parliamo di ginocchio un po' impastato, cioè quelle ginocchia un po' così, non gonfie, non hanno versamento vero e proprio, ma sono un pochino infiammate, un po' impastate. E quindi questo può essere, diciamo, possono essere le manifestazioni. L'altra cosa interessante di questo dolore è che è notturno, cioè non è un dolore strettamente correlato all'attività o alle cose che uno fa, ma soprattutto nelle fasi iniziali, quindi nelle fasi di esordio di questa patologia, è un dolore che si manifesta soprattutto di notte. E quindi questi segnali dovrebbero iniziare a far pensare. Cioè non dobbiamo pensare immediatamente mi sono rotto un menisco, piuttosto che ho la cartilagine lesionata, piuttosto che... Ma dobbiamo pensare che siamo in piena crisi da edema osseo. Una specie di livido. Lei ha parlato di infarto. Che sì, mi fa esatto, più paura. Una sorta di infarto, cioè a un certo punto l'osso non viene più vascolarizzato adeguatamente, perché si possono creare lì vicino delle microfratture per mille motivi, e a questo punto si gonfia perché si riempie d'acqua e fa un gran male, E farà un gran male, la parola è di un esperto, ma abbiamo detto cinquantenni e oltre, sportivi, sì. Più donne o più uomini? Anche qui oggi per esempio è emersa una cosa interessantissima. Fino a qualche tempo fa si pensava fossero le donne le più interessate, e invece da questi studi abbiamo praticamente una parità di distribuzione fra tutte e due. Allora, qual è l'esame che mi permette di arrivare, che permette a voi, perché l'importante è che lo capiate voi, di fare diagnosi, di capire che cosa sta succedendo al mio ginocchio, se c'è questo sorta di infarto, di livido? Allora, l'esame principale è la risonanza magnetica, quindi noi se ci sono questi segnali, diciamo questo tipo di sintomatologia, fare una risonanza magnetica è importante, però attenzione, non farla troppo precocemente, perché se noi facciamo una risonanza magnetica in immediato, mi viene il dolore e entro 7 giorni faccio la risonanza magnetica, rischiamo di trovarla di ritrovarla negativa, mentre se aspettiamo 2-3 settimane, la risonanza magnetica può darci l'immagine, e l'immagine che cos'è? È una sorta di, noi ci vediamo di solito alla risonanza magnetica l'osso con un colore molto scuro, un grigio scuro tendente al nero. Grigio topo, a proposito. Esatto, grigio topo, esatto. Nell'edema osseo nella zona dell'edema abbiamo un grigio fumo di Londra, diciamo un qualche cosa di un pochino più chiaro, un pochino meno definito. E quella è la zona di sofferenza, e quindi con la risonanza magnetica in modo specifico noi facciamo la nostra diagnosi. Allora, il nostro amico Francesco Piastrellista, che noi portiamo nel cuore perché ci segue regolarmente, ci scrive: ma io che sono piastrellista rischio di più, perché c'è il ginocchio della lavandaia, ci sarà anche il ginocchio del piastrellista, il gomito del tennista. Sì, certo. Io ginocchio piastrellista. Il colpo della strega. Rischio di più, per un motivo, perché facendo il piastrellista e quindi stando in posizione accosciata il più frequentemente possibile, rischio di usurarmi il menisco. E una delle cose che può scatenare l'edema osseo è un menisco usurato che pian pianino si lacera, per cui il menisco rimane a posto, è in sede, però si crea immediatamente un sovraccarico nella zona dove il menisco praticamente non fa più la sua funzione, e quindi questo può scatenare un edema secondario. Allora, consigli per evitare che la situazione peggiori e soprattutto per calmare il dolore, dato che lei ha detto anche se avete dolore è una pausa caffè un po' rumorosa. Dove è andato? Io purtroppo sto scappando non deve farsi vedere perché ci sta facendo da inviato. Certo. Nel frattempo, prima di fare la risonanza, perché lei ha detto bisogna aspettare un po', quindi stringere i denti, c'è il dolore. Che cosa faccio per farmi passare il dolore? La prima cosa che faccio è mettermi con delle belle stampelle, come quelle di una volta, quindi ridurre il carico sul mio ginocchio, quindi ridurre gli stimoli dolorosi, gli stimoli dati dal carico. prendo del ghiaccio, prendo degli antinfiammatori per curare il dolore, anche se spesso in questi casi l'antinfiammatorio fa abbastanza poco, e poi dopodiché tre settimane faccio la risonanza, e se la risonanza è positiva abbiamo delle splendide terapie anche farmacologiche che possono aiutarci a guarire dall'edema osseo e quindi diciamo a risolvere questo problema in molti casi. Quindi non devo finire sotto i ferri del dottor Berruto. Scappate da chi vi propone i ferri immediatamente in questa situazione. In questa situazione un intervento chirurgico fatto diciamo in un paziente che ha una edema in fioritura, come dire, può scatenare delle reazioni terribili e danneggiare in modo definitivo il ginocchio. Quindi molta molta cautela, ecco, soprattutto in quella fascia di età dai 50 ai 60 anni. Come a dire, scappate a gamba levate, se no con le stampelle. Fuggite il chirurgo con le stampelle. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Dal 4 marzo al 13 maggio ascolta giovani talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Cuore e denari. Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco. Con ste cuffie sempre così alte noi. Chissà. Che dici, facciamo bene, facciamo male? Allora, lo chiediamo? Sì, lo chiediamo tra poco, perché adesso vediamo se abbiamo anche noi orecchio. Facciamo una sorta di, non è un test, è un giochino, perché ci sta nel giorno dedicato all'udito. Allora, facciamo così, abbassate voi piano piano il volume della vostra radio sino a quando sentirete la mia voce come se fosse un po' sussurrata. Poi partirà un elenco di parole, alcune hanno senso, altre invece sono assolutamente senza senso, la scelta non è casuale. E allora voi abbassate piano piano il volume, ecco, allora ancora un pochino, prendete la carta penna, se no allenatevi con la memoria. Se siamo pronti, noi siamo pronti. Tu sei pronta, Deborah? Pronta, Carmelo? Guarda, carta, okay, penna, andiamo. E calamaio, via. Vai. Giglio, bile, cane, vile, pane, cufe, cheju, megi, chize, dufi. Adesso riportate di nuovo il volume della radio ai livelli normali e tra poco lo riascoltiamo, così capiamo di più. Giglio, bile, cane, vile, pane, cufe, cheju, megi, chize, dufi. 800 24 00 24, per dirci quante parole avete sentito, e lo chiediamo anche al nostro ospite. Beh, ma chissà se ha fatto anche lui il nostro gioco test. Beh, buongiorno. Deve sperimentarlo. Buongiorno, buongiorno. Professionalmente parlando. Certo, dottor. Dottore. Ha preso nota, intanto io la presento. Beh, la sua voce ormai è così di casa a Cuore Denari che sicuramente l'avranno riconosciuta, ma dato che abbiamo sempre nuovi amici, ai nuovi amici presentiamo il dottor Sandro Burdo, che è medico, audiologo e consulente audiologo degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. Allora, è uscito da questo gioco test? Ma io penso di esserne uscito bene, in realtà. Interessante, perché avete unito, i radioascoltatori non sanno che io e lei andiamo in diretta veramente, quindi non ci siamo preparati prima, quindi quello che io dirò adesso non abbiamo concordato, che lei ha scelto delle parole dei logotomi, cioè le parole senza senso, quei bisillabi senza senso, si chiamano logotomi e servono per fare dei test vocali, così si chiamano nella nostra specialità, per verificare le capacità di comprensione semantica, perché l'udito non serve solo per sentire, serve anche per capire, perché molti pazienti hanno problemi di questo genere, quindi possono sentire bene i logotomi, cioè quelle bisillabe senza senso, e non capire le parole con senso. Quindi sento, capisco dufi e non cane. Perfetto. In questo caso Hai visto? Tu le hai capite tutte, ma no, io non le avevo sotto mano. E poi su questo gioco devo dire che ha anche un po' di paternità il dottor Andrea Franzetti, che il dottor Burdo conosce bene, che in una puntata precedente avevamo fatto un po' una sorta di questo test. Allora un po' ho riprovato. Dottor Burdo, che cosa possiamo dire agli ascoltatori che si sono cimentati in questo gioco test? Ma aggiungo un'altra informazione. La parola più difficile in italiano è la parola fischi, e tutti voi avete capito, spero, da qui il famoso detto fischi per fiaschi, fischi perché è tutto spostato sugli acuti e ha delle consonanti e delle vocali, soprattutto le consonanti di breve durata, le vocali spostate sugli acuti. E gli acuti, i toni acuti, sono i primi a essere, come si può dire, a essere persi in chi diventa sordo. Quindi chi capisce fischi per fiaschi in realtà ha una sordità. 800 24 00 24 per parlare con noi, per mettervi alla prova. Ma dottor Burdo, noi insomma sull'udito abbiamo tendiamo a così non avere grande consapevolezza, perché il nostro udito, come noi, invecchiamo, ma continuiamo in qualche modo a sentirci, non ci accorgiamo subito se l'udito cala. A volte diamo la parola a qualche cosa che è al di fuori di noi, non sento bene perché c'è un rumore di sottofondo, oppure non sento bene perché parli troppo veloce, ti mangi le parole, oppure ho un orecchio tappato e quindi non sento bene. Allora, senza contare delle persone che hanno un problema dentro all'orecchio, danno la colpa all'orecchio che ronza, frulla, fischia. Dottor Burdo, sono tutte giustificazioni? È un nascondersi dietro un dito? Ce la stiamo raccontando o che altro? Assolutamente, e chi se la racconta di più sono i 40-60enni. In Italia ci sono 3 milioni e mezzo di questa età che hanno problemi di udito, lo negano, lo nascondono, anche perché riescono a sopperire alla difficoltà uditiva con delle particolari funzioni, l'attenzione, l'intelligenza, ogni tanto barano, però alla sera arrivano stanchissimi. Allora, questi 40-60enni devono essere l'oggetto della prevenzione e della terapia, cioè devono definitivamente convincersi che devono risolvere il loro problema e quindi non andare in solitudine, non abbandonarsi allo sconforto e soprattutto non barare, questo è il punto. Allora, uomini e donne invecchiano soprattutto uomini. Sono loro, sugli uomini, sugli ascoltatori di Cuore Denari ci stiamo concentrando oggi. Andate poi magari andando a riascoltare la puntata a provare il nostro gioco test. Quali altri sintomi, segnali possono invitare gli ascoltatori, il nostro uomo 40-60enne, a non nascondersi dietro un dito e magari fare un esame all'udito? È il famoso sento ma non capisco, dicono io non sono sordo, confondendo il sintomo della loro sordità con la sordità totale, cioè non si è solo sordi totali, si può essere un po' sordi, e chi ha una sordità lieve o media sente le parole ma non le discrimina, quello che dicevo prima, fischi per fiaschi, non discriminandole, quindi devono integrare, devono fare una serie di cose. Tutta questa abilità accessoria all'udito che permettono un buon ascolto, e non è un gioco di parole, cioè sentire una cosa, ascoltare un'altra, vengono a mancare con la terza età, cioè quando si diventa anziani tutte le funzioni vengono a essere un po' rallentate, per cui non si può più barare o non si può più integrare. Allora, costoro sono quelli che in terza età vanno a comprare gli apparecchi ma non li useranno mai, perché sono 20 anni che non sentono e quindi il loro cervello non è più in grado di sentire e di elaborare ciò che sente. Ecco, perché a proposito ho letto per preparare la puntata una bella ricerca che in sostanza dice che quando l'udito se ne va il cervello si riorganizza. Un gruppo di ricercatori dell'Università del Colorado hanno scoperto che quando l'area del cervello in questione, relativa quindi all'udito, resta disoccupata, dato che i neuroni sono sempre molto attivi, che cosa fanno? Si riciclano e si dedicano ad altri sensi, in particolare al tatto e alla vista. È così, dottor Burdo? Guardi, queste sono le nuove frontiere della neuroscienza, che non sono ipotesi, sono dati di fatti. Lei ha parlato di due concetti fondamentali. Uno, la riorganizzazione crossmodale, che è un termine difficile per spiegare quello che ha detto lei. Quindi vuol dire che, sì, che l'area dell'udito viene occupata da altri sensi. Sì. Perché chi va all'osto perde il posto. Sì, brava, ecco, perfetto, banalmente. Questo è il concetto di base. È così. Il secondo concetto importantissimo, che è la rivoluzione delle neuroscienze, è il concetto di connettoma, cioè non ci sono più delle aree ben precise e statiche del nostro cervello, una dedicata all'udito, una alla visione e così via, predisposte già là. Sono predisposte alla nascita, ma sono in continua evoluzione e, attenzione, in involuzione, cioè non possono solo crescere, possono anche scomparire. L'area uditiva, che è in continua attività, ecco, è un hub del cervello, quindi è un'area importante, perché ad essa sono collegate altre aree. Pensi solo all'area del linguaggio. Lei sì. parla italiano perché ha sentito, è stata esposta all'italiano, altrimenti parlerebbe tutte le lingue del mondo. Certo. Nel momento in cui viene a mancare l'hub principale, in questo caso l'udito, vengono a mancare la memoria, insomma in parte la memoria, attenzione, soprattutto il linguaggio, alcune abilità cognitive che sono collegate all'area uditiva. Questo vuol dire che il cervello è in continua evoluzione e ci sono delle aree che sono particolarmente importanti anche per altre. Quindi se noi stacchiamo la spina, se stacchiamo la spina non arriva tutto quel nutrimento, tutte quelle informazioni utili, tanto che si parla forse anche in modo improprio di una relazione tra perdita di udito e demenza, di cui avevamo parlato anche con il dottor Burdo si ricorda, mettendo un po' i puntini sulle i. Vanno messi i puntini sulle i, è chiaro che ciò che noi sentiamo è la benzina del cervello. Però parlare di prevenzione della demenza protesizzando una persona ultra o settantenne non ha è senso. Un po' una favola. Vanno protesizzati invece i cinquantenni. Il cinquantenne che non so, che non sente e non si protesizza può accelerare un processo di demenza quando sarà anziano. Questa è la prevenzione, non sul settantenne ovviamente. Andiamo a Silvio che ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Sicuramente la persona che l'uomo in questione, ma anche se capita una donna, ha una perdita progressiva dell'udito, in qualche modo si perde un po' di stimoli, di contatti, e quindi in qualche modo si chiude. Cambia anche la sua vita relazionale nel senso pieno del termine. Ne parleremo tra poco con il dottor Burdo, che già capito dove voglio andare a parare, ma Silvio ci chiama da Milano. Buongiorno Silvio. Sì, buongiorno a voi, grazie per la possibilità di fare questo intervento. Senta, io telefonavo, soffro da qualche anno di acufeni, soprattutto sull'orecchio sinistro, e volevo sapere, ho già fatto delle visite, qualcuno mi dice che ce l'hai, te lo tieni, non c'è niente da fare. Un altro mi ha dato delle pastiglie, adesso non ricordo diciamo tipo di pastiglie erano, però il problema comunque ho fatto e non ho visto nulla. Esatto, mi è rimasto e mi rimarrà, da quanto ho capito. Volevo soltanto sapere se c'era qualche cura, qualche modo per poter diminuire questa sensazione di fastidio, perché diciamo, di fischio all'interno dell'orecchio. Silvio, posso chiederle la sua età? 50 anni, è il nostro uomo, dottor Burdo. È lui. Si è svelato. Il signor Silvio non ci ha detto che molto probabilmente lui è un po' sordo, è un po' più sordo a sinistra. L'acufene in sé è un sintomo, non è una malattia. Poi può diventare una malattia per una serie di motivi, anche per un vissuto personale. Però nel 90% dei casi è il sintomo della sordità. Cioè la sordità, lo ripeto ancora, non è quella del sordone che non sente le campane del paese. Si può essere poco sordi e orecchio scassato, lo ripetiamo più volte, questo l'abbiamo detto più volte, orecchio scassato fischia per definizione. Quindi non è vero che non c'è una cura per l'acufene, bisogna curare la sordità e non l'acufene. Se io ho un braccio rotto, non chiedo una terapia per il dolore, chiedo che mi aggiustino un braccio. Quindi è un po' un segno di un orecchio scassato. Dottor Burdo, ritorniamo alle relazioni. Ah, guardi, su questa cosa tutti dimenticano dimenticano che cos'è l'udito. Io faccio un paio di esempi importanti. Il bambino sordo, che è quindi privo di tutte le nostre sovrastrutture, ha un comportamento iperattivo se non è trattato, cioè si muove, tocca. Tanti dicono che sono maleducati quando entrano nello studio medico perché continuano a muoversi, perché devono controllare l'ambiente. Le faccio un altro esempio. Io ho avuto parecchi bambini purtroppo sordi da meningite, quindi con una sordità acquisita, prima ci sentivano bene, di notte erano pieni di incubi. Quando li abbiamo fatti sentire e gli abbiamo messo gli impianti o le protesi anche di notte, si sono rilassati. Noi quando andiamo a dormire chiudiamo gli occhi ma non spegniamo le orecchie, ci sarà ben un motivo, che è quello del controllo dell'ambiente. Siamo certo. Prima animali e poi uomini. 800 24 0024. Dottor Burdo, abbiamo Mauro che ci chiama da Milano. Benvenuto Mauro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora io vi ascolto quando posso, lavoro permettendomi, mi sposto molto, è già circa la seconda o la terza trasmissione sul tema dell'udito e faccio fatica però a cogliere tutti i suggerimenti del dottore dall'inizio alla fine. Mi rimane un dubbio, io ho 54 anni, mi rendo conto di avere un inizio di perdita progressiva dell'udito, faccio fatica a sentire in ambienti rumorosi, mi sfuggono alcune parole e quindi mi rendo conto che ho iniziato un percorso. Non sono mai riuscito a capire, ma per colpa mia che non riesco a partecipare con costanza, se c'è un'attività di prevenzione possibile al di là delle protesi. Grazie Mauro, bella domanda. Dottor Burdo. Ma la prevenzione in questi casi... è cuore denari. La prevenzione è cuore denari. La prevenzione è cuore denari. E poi da lì si parte. Evidentemente. Allora, qui il concetto di base è che non diamo sempre la colpa agli altri dei nostri acciacchi. Una persona può essere sorda, e questa è la maggior parte dei casi, perché ce l'ha scritto nel sangue, nel suo DNA. C'è chi perde i capelli, c'è chi comincia a vederci meno e c'è chi perde l'udito. Siamo fatti così, mi spiego. Questo è il motivo più frequente di sordità. Dobbiamo cambiare il nostro DNA per modificare, mi spiego, a meno che noi non facciamo il pilota d'aereo di un caccia dove il rumore è eccessivo e quindi possiamo aggravare la sordità, ma una persona che fa una vita normale, se diventa sordo è molto probabilmente perché te l'ha scritto nel sangue, non perché qualcun altro interviene. Qui il problema è quindi non è tanto quello di prevenire la perdita dell'udito, quanto di prevenire gli effetti della perdita dell'udito. Io abbiamo detto prima, ne faccio uno che è poco noto, soprattutto nel maschio, la perdita della libido. Ci sono dei maschi, e sono molto frequenti, che non sanno che la perdita dell'udito può provocare una perdita di libido. Perché? Quello che ci siamo detti prima. L'udito serve anche a controllare l'ambiente, quindi a favorire l'avanzamento della specie e così via. Quindi la perdita di libido è legata a una scarsa attivazione della sostanza reticolare nel tronco dell'encefalo, che è quello che ci fa stare allerta, per cui siamo un po' imbambolati, siamo un po' spenti. Ecco, questo è una delle tante, non è una bella notizia. Perché cinquantenne, l'udito cala e tutto il resto, quindi per essere dei buoni amanti ci vuole orecchio, dottor Burdo. Ci vuole orecchio, cioè sintetizzando, andando proprio... Così. Il suo ruolo anche. Ho avuto dei pazienti che mi hanno chiesto addirittura degli strumenti, diciamo, maneggevoli, da usare anche di notte, insomma, per sentire, perché fa parte della vita anche questa. Così come ho avuto dei pazienti. Quindi, mi scusi, una protesi sentire, potrebbe risolvere un problema sessuale? Diciamo che può migliorarlo sicuramente, perché ci mette. Provate anche con la protesi, che tra l'altro. Chi mai avrebbe detto? Ma noi la sappiamo lunga, vi diamo tutti gli strumenti per. A proposito di protesi, un ascoltatore ci scrive: parlate anche dei prezzi delle protesi. All'estero costano meno, qua costano di molto, ma ci sono anche i nuovi LEA, dottor Burdo. I grandi nuovi LEA. I grandi. No, su questo siamo il paese più avanzato del mondo. Sì, questo attenzione, è vero. Il gatto non è nel sacco perché non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta. Però il decreto c'è, quindi non penso che facciano degli scherzi che il governo Gentiloni cada domani mattina, spero di no. E allora ci racconti. Di fatto la rivoluzione è epocale, perché le protesi acustiche non sono più un oggetto di consumo in Italia, ma fanno parte dei LEA. Guardi che è una rivoluzione. No, no, ma per questo io le ho servito la palla, perché volevo dare questa informazione agli ascoltatori. È incredibile questa cosa. In nessun altro paese al mondo vengono date le protesi digitali. Non solo, non solo. Hanno diminuito anche il livello di sordità. Bisogna sempre essere invalidi civili, e questo basta andare dal proprio medico e fare tutti gli incalzamenti. Però prima bisognava essere sordi almeno 65 decibel, adesso 55, quindi è diminuita il livello di sordità necessario per ottenere le protesi gratis. Attenzione, protesi di qualità, non protesi da mutua, come si suol dire. Protesi di qualità. Dobbiamo un minuto per ricordare, per mandare un messaggio forte e chiaro ai nostri ascoltatori, perché poi andiamo a sentire i mercati che non sono sordi, vero? Anzi, sono benissimo. Molto vivaci, si relazionano all'ambiente. Dottor Burdo. Allora, del connettoma abbiamo parlato, della giornata, dei segnali. Abbiamo detto che l'udito ci vuole udito anche per essere dei buoni amanti, oltre che apprezzare, direi, in toto la vita. Abbiamo spiegato e sottolineato la relazione che spesso viene così annunciata tra calo dell'udito e demenza. Non è esattamente così, ma lei ci ha spiegato, e anche il buon senso ci aiuta ad arrivare a capire l'importanza. Che cosa possiamo dare? Un'altra chicca in più agli ascoltatori di Cuore Denari? Io, guardi, l'oggetto delle mie ricerche, non solo ricerche ma valutazioni, in questo momento sono sempre comunque i 40-60enni, e le do ulteriormente dei numeri. È chiaro che ben il 43% degli anziani oltre 70 anni hanno una perdita di udito, e questo equivale a 4 milioni e mezzo di italiani di questa età che hanno problemi di udito. I 40-60enni sono solo il 25%, ma sono molto più numerosi. Anche su questo, come la storia della demenza, non si fanno i conti con il consenso. Per cui è solo il 25%, però essendo più numerosi sono 3 milioni e mezzo di persone che non fanno nulla. Questo è un problema serissimo. Speriamo di averne raggiunti alcuni, e quindi comunque sempre noi siamo qua a disposizione. Dottor Burdo, ci sentiamo, è il caso di dire, presto e bene. Grazie, dottor Burdo. Buona giornata. Intanto, per la storia del nostro topo, nel pomeriggio abbiamo chiesto al professor Carlo Alberto Redi, che è direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo dell'Università di Pavia, di spiegarci un po' questa, che sembra essere un passo importante, è una cosa abbastanza complicata e difficile. Abbiamo chiesto ad un grande esperto, se volete saperne di più, il suo intervento sulle pagine di Cuore Denari. Mercati, ti ho rubato un minuto, Deborah. Domani te lo... Hai sentito bene? Ti ho rubato un minuto. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Eh sì, cambiare si può. Da 10 anni a questa parte molti italiani hanno scelto di farlo, e anche molto frequentemente, appunto, si può cambiare anche mutuo. Sono passati ben 10 anni dalle famose lenzuolate di Bersani, che, come ricorderete, fra i vari provvedimenti introdussero anche la possibilità di spostare il mutuo da una banca ad un'altra, la famosa operazione della surroga, un cambiamento che mandò letteralmente in tilt, in molti lo ricorderete, il settore bancario, del tutto disabituato a questi cambiamenti, o quantomeno a queste richieste da parte, appunto, della propria clientela. 10 anni di vita da quei provvedimenti, appunto, che cosa è cambiato? È molto vivace oggi il mercato immobiliare dal punto di vista dei finanziamenti che servono a renderlo vivace. E allora oggi abbiamo deciso di fare un punto della situazione, rifacendo un po' l'ABC di tutti quei provvedimenti introdotti, appunto, da quella famosa legge che consentì e consente tuttora non solo la surroga del mutuo, ma anche la sostituzione e la rinegoziazione. Sono tre procedimenti appunto diversi, ma che consentono in ogni caso, se possibile, di rendere più leggera la rata del mutuo che viene pagata ogni mese. Vito Lopsi, Il Sole 24 Ore, ben ritrovato, ciao. Ciao. Autore del grande bestseller del settore, Il Mutuo Perfetto, riaggiornato peraltro di recente, se non ricordo male. E poi naturalmente anche Anna Vizzari, dell'ufficio studi economico-giuridici di Altro Consumo, un'altra grande amica di Cuore Denari. Anna, ben ritrovata, buongiorno. Grazie, buongiorno. Un po' meno amica dei mutui, naturalmente, soprattutto. Però, insomma, ce li siamo fatti amici anche in qualche maniera in questi anni, Anna, no? Grazie anche a questi provvedimenti abbiamo cominciato a prendere un po' più, non solo confidenza con lo strumento del mutuo, ma soprattutto confidenza con il fatto che certe, come dire, questioni che ci sembrano di pietra nella relazione con la banca in realtà si possono trattare. Questo è un grande tema oggetto di trattativa. Assolutamente, perché i clienti, soprattutto quelli che chiedono un mutuo, sanno oggi che la loro scelta è più libera, nel senso che c'è la possibilità di tornare indietro se qualcosa cambia sul mercato, di cambiare banca senza dover sostenere costi ingiustificati. Quindi c'è sicuramente più mobilità, meno barriere all'uscita, c'è più possibilità anche di confrontare, perché è più semplice confrontare unicamente il tasso di interesse piuttosto che tutte le altre spese che invece caratterizzavano prima l'operazione di trasferimento. E quindi noi abbiamo visto che sostanzialmente è una misura inserita sì da una norma, ma che comunque ha cambiato in positivo il mercato. Certo, esattamente, le misure di Bersani che cosa introdussero proprio in termini di novità dirompente in quel periodo? Allora, la prima cosa è che i mutuatari non hanno più oggi la commissione di estinzione anticipata, che invece ricordiamo che nel 2007 raggiungeva anche cifre del 5% sul capitale residuo del mutuo. Ciò significa che se io voglio estinguere prima il mio mutuo non devo pagare una commissione aggiuntiva alla banca, pago unicamente il mio capitale residuo e quindi non c'è più nessuna penale. Quindi anche qui un'eliminazione della barriera all'uscita. La seconda grossa novità è stata l'introduzione del trasferimento gratuito del mutuo da una banca all'altra, per cui oggi i clienti che vogliono trasferire il loro capitale residuo da una banca ad un'altra non devono pagare nulla né alla vecchia banca né alla nuova, in termini per esempio di istruttoria, perizia, spese assicurative. L'atto dal notaio è molto semplice, comunque il costo è a carico della banca. E tutto deve realizzarsi in una tempistica ben definita, che sono i 30 giorni lavorativi dalla richiesta dei conteggi estintivi alla vecchia banca, per cui è una procedura comunque che funziona molto certo. bene anche dal punto di vista interbancario. Allora, la surroga, dicevamo, il processo di trasferimento di un mutuo residuo dalla banca ad un'altra. Naturalmente sì. non è che uno lo fa questo passaggio così tanto perché vuole divertirsi e andare un po' a fare un dispetto al direttore vecchio che vuole lasciare, ma perché evidentemente va a caccia, no, Vito Lopsi, di condizioni migliorative del proprio mutuo residuo. Quindi la surroga significa che tu il vecchio mutuo lo trasferisci nello stesso formato alla banca nuova, ma a condizioni più vantaggiose. Su quali condizioni si può trattare? Sì, la surroga consente di trattare sul tasso e sulla durata residua, non sull'importo del debito residuo, perché altrimenti sarebbe una sostituzione. Esatto, perché in quel caso, dovendo cambiare anche l'ipoteca, la garanzia ipotecaria, ci vuole un nuovo atto notarile che invece non è dovuto nel caso della surroga. Quindi questa è stata una grande novità e quindi in questi anni, tra l'altro, in cui abbiamo assistito a forti oscillazioni sul fronte dei tassi, forti ribassi sul fronte dei tassi, siamo entrati nell'era dei tassi vicino a zero, e la surroga è stata straordinariamente utilizzata da parte di tutti gli italiani. Un aspetto molto importante della surroga è che sta aiutando gli italiani a comprendere che il mutuo, anche se è un debito, va considerato come un qualsiasi forma di investimento e quindi come tale ogni tanto ci si deve risedere sul tavolo con il contratto e guardare il tasso e capire certo. se questo tasso è vicino alle condizioni del mercato in questo evidentemente, momento. Certo. E quindi ha aiutato molto gli italiani a chiedersi anche che tasso stavano pagando, perché sono in tanti che prima dell'espansione della surroga in realtà non erano molto consapevoli, esattamente. Quindi sicuramente è stata, come dire, una legge che ha consentito anche agli italiani di assumere una consapevolezza diversa rispetto a questi impegni finanziari che spesso si prendono per tantissimi anni e non sempre nella piena concezione appunto di tutte le caratteristiche di questo finanziamento. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione se volete chiamarci e raccontarci magari se in realtà voi avete provato a fare questa operazione di passaggio da una banca ad un'altra appunto per migliorare le condizioni del vostro mutuo, ma in realtà qualcuno è intervenuto ostacolandovi in questo procedimento. Quindi il tema è, Vito, la banca può dire no, chiaramente quella da cui vuoi andare via magari ti può un pochino ostacolare perché vogliono tenersi clienti, magari c'è tutta una serie di relazioni appunto preesistenti e quindi per la banca è un peccato perdere un cliente. La banca dove si vuole andare invece può a sua volta dire no, perché molti ascoltatori hanno la percezione che ciò che consente la legge Bersani sia un obbligo per tutti gli attori in gioco, invece non è così. No, la nuova banca è quella che dovrebbe accettare il nuovo cliente e ovviamente discrezionalmente può decidere in base alle condizioni reddituali del cliente. E tra l'altro, siccome negli ultimi anni c'è stato un ribasso del valore delle quotazioni immobiliari, molti mutui in realtà hanno visto aumentare il cosiddetto loan to value, cioè nel senso il valore del mutuo in rapporto al valore dell'immobile. Quindi se uno ha chiesto un mutuo all'80% in un periodo in cui poi l'immobile si è svalutato e si è presentato in una nuova banca per chiedere una surga, magari la banca non gliel'ha potuto concedere perché il nuovo rapporto era addirittura oltre il 100%. Perché la banca nuova naturalmente riesegue una perizia sull'immobile di cui abbiamo parlato in qualche puntata fa, peraltro con Nicoletta, e quindi chiaramente stabilisce anche se il finanziamento che deve erogare è coerente con il valore dell'immobile, secondo quanto dice lei, ovviamente. Certo, e sia rifà l'istruttore sul reddito e magari gli italiani in questi ultimi anni, poi essendo aumentato il tasso di disoccupazione, magari può essere anche peggiorata la condizione reddituale, ma può essere anche peggiorata la condizione della perizia. Quindi queste due variabili possono spingere la nuova banca a ovviamente non accettare la proposta di surroga. Certo. Prima di così però, Anna Vizzari, imbarcarci in un'operazione o di surroga o di sostituzione del mutuo, forse se le condizioni non ci soddisfano, la prima operazione da fare, proprio quella dalla quale possiamo partire, è la rinegoziazione. Quindi chiediamo in primo luogo alla nostra stessa banca se può migliorarci la condizione, le condizioni della vita residua del mutuo. Sì, sicuramente, però se mi posso permettere, io consiglio a tutti di fare prima una verifica sul mercato e trovare quindi delle offerte alternative altrove. Perché come spesso, strumento di ricatto per il direttore, dici? O comunque semplicemente di convincimento, nel senso che ovviamente la banca, la nostra vecchia banca, non è obbligata a farci una rinegoziazione del mutuo, però certo se il cliente ha trovato altrove un'offerta più allettante, questo può essere da stimolo, diciamo così, per convincere la vecchia banca a fare la rinegoziazione. Da questo punto di vista ricordiamo anche che le famose lenzuolate hanno anche in questo caso eliminato il passaggio dal notaio, quindi il fatto che molto spesso la banca richiedesse anche per la rinegoziazione una scrittura pubblica, quindi tutto si fa invece adesso con una scrittura privata e quindi di conseguenza non ci sono costi aggiuntivi per il cliente. Quindi se vi dicono, facendovi magari un po' di terrorismo, che il procedimento è complicato perché serve un nuovo passaggio dal notaio eccetera, in realtà informatevi perché questo passaggio è estremamente semplificato, per cui è solamente un po' un deterrente che la banca a volte usa per ostacolare, come dicevo, il passaggio. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Adesso, dopo il traffico, sentiremo, vediamo un po' chi si è prenotato, Daniele da Milano, tra poco. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Cuore e Denari. Una vera puntata rock questa, d'altronde ci occupiamo di un tema molto rock fra i nostri ascoltatori. Il tema è il mutuo, quando è il caso di cambiarlo. Ci sono tante naturalmente fasi nella vita in cui questa necessità si presenta, un po' perché noi abbiamo bisogno di fare un cambiamento, un po' perché magari abbiamo le risorse finanziarie per poterlo accorciare e ridurre, questo è l'auspicio che io naturalmente mi auguro per tanti dei nostri ascoltatori, un po' perché magari invece cambiano le condizioni di mercato, si fanno difficili, oppure si perde il posto di lavoro, quindi magari ancora si ha un po' di risparmio, lo si riesce a pagare, ma si vuole alleggerire la rata. Tutto questo oggi è possibile perché 10 anni fa, e adesso tutto questo mondo è diventato piuttosto strutturato, il signor Bersani era ministro dello sviluppo economico, appunto varò le famose lenzolate con le quali introdusse la rinegoziazione, la sostituzione e la surroga del mutuo, tanti modi appunto per rendere più leggero questo impegno finanziario. A che punto siamo oggi? È tutto diventato molto più portabile, direi. 800 24 00 24, sentiamo però in quali circostanze il meccanismo ancora tende ad incepparsi. Daniele da Milano, benvenuto. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Buongiorno. Ci dica. Io ho richiesto 12-13 mesi fa ormai una surroga di mutuo. Sì. A una nuova banca che è la più grossa banca italiana, se sì, ben ricordo. Vabbè. Passando dalla mia vecchia banca, che però ha cessato le sue attività bancarie in Italia. Barclays. E ha mantenuto solo... Esattamente. Vabbè. Abbiamo già fatto una puntata su questo tema, non le dico cosa non mi è venuto addosso, guardi Daniele, va. Ci scriva anzi in privato, va, mi faccia sta cortesia, perché così continuo a togliermi qualche sassolino dalla scarpa, visto che continua ad insistere che sono totalmente trasparenti e corretti. Chiusa parentesi. Esatto. Purtroppo io praticamente attualmente mi ritrovo a voler andare in Intesa, lo dico a questo punto come cosa. Aveva detto che era la più grande, c'eravamo arrivati pure lì. Che oltretutto in questi 13 mesi mi sta dicendo che aver già interpellato più volte anche l'ABI, certo, ma di là non ha risposte assolutamente dalla banca. Allora Daniele, il tema qua non è che non funziona la surroga, il tema sono proprio i due soggetti di cui stiamo parlando, purtroppo, quindi darle una risposta. Detto questo, Anna Vizzari, se fossero due interlocutori facili... Sì, se fossero due interlocutori facili, penso che in questo caso il problema non sia Intesa, ma sia Barclays. Certo, ovvio, sì, sì, no, infatti... avendo lasciato... l'Italia probabilmente non no, tra l'altro mi scusi, scusami un attimo, sì. Daniele, ha anche un mutuo in franchi lei peraltro? No. Ah, è uno normale, no, perché là c'era anche tutto il pacchettone dei mutui in franchi svizzeri. Posso chiedere a Daniele se per caso la sua posizione non è stata trasferita a che banca, che sostanzialmente esatto, ha brava, infatti, il pacchetto gli sportelli. Mutui. Allora, che banca ha preso solo il mio conto corrente che avevo in Barclays? Perché si sono presi solamente, ecco qua già, io già me l'immagino cosa mi succede nel pomeriggio, che mi arriva una svalangata di telefonate, eccoci qua. Benissimo. Vizzari, no, allora se fossero stati due interlocutori normali, tranquilli, senza certo, questi problemi pregressi, in quanto tempo la banca a cui si chiede la surroga e le accetta la deve completare? Allora, il completamento dell'operazione deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui la nuova banca chiede alla vecchia i conteggi estintivi del mutuo, cioè significa chiede quanto residuo deve ancora pagare il cliente. Questo avviene di solito quando il cliente si reca in banca e firma il modulo appunto di richiesta dei conteggi estintivi. Quindi in 30 giorni lavorativi da quel momento la surroga deve essere completata, incluso quindi anche il passaggio dal notaio, quindi anche il trasferimento dell'ipoteca. Se questo non avviene, la normativa prevede per il cliente un indennizzo che pari all'1% del capitale residuo per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Si fa un reclamo formale alla banca, alla vecchia banca, e sostanzialmente appunto si chiede certo, l'indennizzo. E va bene, e questa è la procedura regolare. In questo caso invece abbiamo rappresentato un caso estremamente problematico. Detto che non ce la fa spuntarla con il percorso normale, Vizzari, a questo punto a Daniele che cosa conviene fare? Perché qua bisognerà reclamare pure con qualcuno, un arbitro bancario. Dove andiamo oltre all'associazione dei consumatori? Allora sinceramente questa posizione di Barclays, che comunque ha lasciato dei clienti senza sostanzialmente una controparte in Italia, e a mio avviso avviso è fuori dalla normativa di regolamentazione di Banca d'Italia, perché comunque qualsiasi banca che operi anche parzialmente in Italia abbia dei rapporti, deve avere comunque un contatto, deve lasciare dei contatti ai clienti, deve essere reperita in qualche modo. Quindi sicuramente è un problema che deve essere affrontato globalmente con un intervento della nostra autorità di controllo. Che è anche perché è anche un po' tardi, secondo me, perché ancora ci sono tutte le persone in sospeso col mutuo in franchi che non hanno una risposta, continuano ad interpellare call center che rispondono dall'est Europa e con i quali appunto è anche molto difficile trattare una risposta concreta. Detto questo, Emanuele da Viterbo voleva raccontarci che ha fatto una surroga rinegoziazione, è andato tutto bene. Emanuele, allora magari, visto che a lei è andato tutto bene, non la faccio intervenire, ci scusi se l'abbiamo fatta aspettare. Sentirei Flavio da Perugia. Flavio, benvenuto. Sì, buongiorno Deborah e buongiorno a tutti quanti. Volevo soltanto dire che prima, nel parlare della rinegoziazione, io ho chiesto una rinegoziazione alla mia banca già 3 mesi fa e mi continuano a menare il camperlaia dicendo ma ancora non sappiamo, ci vuole tempo. Allora mi è sembrato di sentire prima che la signora Anna, che avete al telefono, diceva che la banca non è obbligata a concedere la rinegoziazione. Però quantomeno cosa avrebbe un obbligo di darle una risposta sì e no, piuttosto che tenerla in sospeso. Anna, giusto? Sì, assolutamente. Anche... allora, come dicevo prima, non c'è un obbligo della banca. Però, come avevo consigliato anche prima, probabilmente se si guarda un po' intorno e fa anche dei preventivi, delle simulazioni anche sui comparatori online, per esempio sul nostro sito ce n'è uno, altroconsumo.it, può verificare se ci sono delle offerte interessanti, chiedere alla nuova banca una proposta di surroga e con quella tornare nella vecchia banca e quindi in un certo senso convincerli ad attuare la rinegoziazione. Questo sicuramente sì, ma infatti chiedo scusa, dico solo questo, poi lascio spazio ad altri. Il fatto non è che mi dicono no o sì, dicono sì, vedrà che si può fare. Che cosa chiede? Che condizioni ha di mutuo, Flavio? Abbiamo oltre il 4% un tasso fisso trentennale, è molto alto. Assolutamente sì. Flavio, grazie. Allora, il mutuo perfetto di Vitolops, che cosa suggerisce? con la doppia U. Ma assolutamente, se sta pagando il 4%, bisogna assolutamente cambiarlo. Quindi, se la banca continua a fare melina e quindi non ha magari intenzione in questo momento di abbassare il tasso, l'unica strada mi sembra quella suggerita, appunto, di andare da un'altra banca, farsi fare appunto un pre-contratto e con quello cercare in ultima istanza di spingere la banca alla rinegoziazione, altrimenti procedere con la surga. Tra l'altro non vedo perché intestardirsi con la vecchia banca quando continua a fare melina. Perché è un po' più facile naturalmente non dover cambiare, fare lo spostamento, Vito, è un procedimento complicato sul quale bisogna mettere un po' la testa e non sempre abbiamo voglia, però insomma se poi mettiamo mano al portafoglio la voglia ci viene. Allora stiamo salutandoci, tra un minuto appunto la trasmissione termina, ma Vito, il tema dei surrogatori seriali oggi sembra essere un po' meno preoccupante per le banche rispetto al passato, che quando ricevevano una richiesta di cambiamento da parte di una persona l'accoglievano, poi magari questa persona dopo 6 mesi ci riprovava con un'altra banca andando a caccia di altre condizioni ancora migliorative e chiaramente la seconda banca diceva no, se tu sei abituato così io non ti accolgo. Adesso invece c'è ancora più elasticità da questo punto di vista. Adesso, dato che il primo giro di surroghe in Italia diciamo è quasi esaurito, perché più o meno tutti hanno già migliorato il proprio tasso o per larga parte, le banche sono predisposte ad accettare anche le surroghe al secondo giro, quindi quella dei cosiddetti surrogatori seriali, anche perché i tassi sono talmente bassi che in questo caso è molto probabile che poi chi surroga ora non surrogherà nei prossimi anni. Allora, intanto tutte le domande che ci sono arrivate potete scriverci a cuoredenari@radio24.it. Anna Vizzari, come sempre, è a nostra disposizione. Magari questa volta per par condicio ne mando qualcuna anche di domanda a Vito Lops. Noi torniamo lunedì. Buon weekend a tutti.